E si inizia, venghino signore allora, e signori. Buonasera, buonasera. Probabilmente benissimo così. Allora, niente, rompere il ghiaccio è sempre una cosa che mi rompe veramente i coglioni, però... ghiaccio, coglioni, vabbè. E niente, allora, io sono Simone di Three Faces, con Niccolò e Yuri, l'artista che presentiamo stasera. Cioè l'autore della pubblicazione che presentiamo questa sera. Dico giusto due cose proprio su Three Faces per presentare, poi lascio la palla a Yuri, che insomma ha più aneddoti e più cose interessanti da dire. Noi siamo un'associazione culturale nata nel 2013, appunto operante nell'ambito della promozione letteraria e artistica rivolta ai ragazzi soprattutto. Produciamo una rivista da tanti anni, che è Street Book Magazine, che insomma, magari qualcuno ha visto, e che appunto copre narrativa, racconti brevi inediti e di autori emergenti e illustrazioni. Questo un pochino per avvicinare i ragazzi al mondo della cultura. Diciamo che una delle nostre peculiarità è quella di avere un forte legame tra l'ambito letterario e grafico, ma comunque... Piano piano nel corso degli anni abbiamo sviluppato l'interesse verso tutto quello che è commistione di vari linguaggi artistici. Questo perché fondamentalmente siamo convinti che questo aiuti ad arrivare a un pubblico maggiore, che comunque sia, viviamo anche nella società dell'immagine, nell'era dell'immagine, per cui insomma per arrivare ai ragazzi, per interessarli anche quello... È un elemento molto forte, così come può essere il video, la performance teatrale, la musica, sono tutti vari linguaggi che possono far confluire a un unico scopo, cioè che è quello di far ragionare, perché l'arte comunque è uno strumento che mette in moto il cervello, e in questo momento storico in cui siamo circondati da un'estrema confusione c'è bisogno di ragionare, di analizzare ciò che ci circonda anche per cercare di cambiarlo. E niente, questo proprio per dare un minimo di inquadramento a quello che ci ha mosso all'inizio. Ora abbiamo aperto anche un centro culturale, se vi va di passarci a trovare, siamo C4 a Rifredi, qui vicino tra l'altro. Organizziamo presentazioni, esposizioni, talk, corsi di formazione, insomma, sempre sulla stessa linea. Venendo un pochino a quello che è il centro di questa presentazione, appunto, è Graffiti per Pranzo, che è diciamo un progetto che ci è cascato un po' addosso tra capo e collo, che però noi abbiamo seguito in presa diretta durante lo svolgimento. Tutto nasce appunto da Yuri, che nel 2019, giusto? 18? 17, perfetto. Ho traslato tutto un pochino. Scusate, normalmente io non faccio le presentazioni, sto dietro le quinte ed è bene che io stia lì, perché... Vabbè, fondamentalmente appunto è un viaggio, è una pazzia che gli è venuta in mente, cioè quella di girare l'Italia scambiando un murales per una ricetta tipica, per cui proprio con uno scambio, con la volontà poi anche di trasporre queste ricette in forma grafica, per comunque mantenere una tradizione. La cucina in Italia è un elemento sociale e culturale molto forte, per cui insomma ha trovato una bella chiave anche moderna per mantenere queste tradizioni, e in realtà è veramente riduttivo. È difficilissimo parlare di questo libro, perché come giustamente ha scritto lui nella prefazione, è un po' un mutoide, cioè non è un libro di cucina, non è un libro illustrato, non è un libro prettamente incentrato sulla street art, è un contesto, racchiude veramente un bel minestrone di cose, che però veramente ci ha fatto veramente piacere supportarlo nella realizzazione, perché racchiude un pochino quel concetto di cui vi parlavo prima, del mescolare vari linguaggi, vari ambiti, per cui niente, direi che vi ho detto già abbastanza cazzate, per cui passerei, vuoi dire anche te qualcosa? Perfetto. passo a me a di cazzate. Allora, Graffiti per pranzo nasce nel 2017 dalla mia curiosità di mangiare. A me piace mangiare, piace cucinare e da sempre in ogni città in cui vado, che non conosco, vado alla ricerca di quello che è il piatto tipico o cosa si prepara in un posto piuttosto che in un altro, proprio perché ho fame, perché mi piace cucinare, perché mi piace scoprire cose nuove. Quindi vado al forno, vado al ristorantino, alla tavernetta o cerco soprattutto di andare a casa delle persone che sono il fulcro della cultura culinaria di ogni paese. Quindi da sempre, quando andavo per i festival o a dipingere in giro, andavo a cercare queste cose particolari in ogni città. Questo è stato l'inizio del libro dei Graffiti per pranzo, perché mi trovavo in un piccolo paesino in Molise, a Tufara, e stavo lì per un festival e stavo facendo il mio muro tranquillamente e c'era dietro di me una signora che mi guardava, un po' timida, la vedevo che stava lì, una signora a una certa età. E poi alla fine insomma si è avvicinata, ha preso coraggio, mi si è messa a chiacchierare, mi ha detto che gli piaceva molto il disegno, che avrebbe voluto un muro anche vicino a casa sua, perché lei stava nella parte bassa del paese e secondo lei non ci andavano tante persone, quindi se gli avessi fatto un murales sarebbe passato qualcuno, quindi c'era un po' più di vita nel suo quartieretto. E io gli ho detto va bene, si può fare, però l'ho sfidata, gli ho detto ma sì, ma lei li sa fare i cicatelli, che è questa pasta tipica locale, gli ho detto lei li sa fare i cicatelli, e quella, ho detto orgogliosa, mi ha risposto dicendo certo che li so fare, sono 50 anni che faccio cicatelli, mo arrivi te. E quindi io ho chiesto vabbè, io gli faccio il murale, se in cambio lei mi insegna, mi fa vedere come si fa sta pasta fresca. E lei ha detto ok, ci vediamo il giorno dopo, ci siamo dati appuntamento e lei si è fatta trovare pronta, carica, con una sua amica, una tavolata imbandita di farina, uova, eccetera eccetera, e si è messa a impastare sti cicatelli insieme a lei, mi ha spiegato un po' come si faceva, e poi io ho fatto un muro davanti a casa. Quindi questo scambio così spontaneo, simpatico, non monetizzato di cultura, perché poi lei mi ha regalato sti cicatelli, cioè me l'ha fatta in una bustata. E poi mi ha detto come li fai sti cicatelli? Io ho detto come li faccio col sugo, come si fa? E lei mi ha detto no, li devi fare con questo sugo qua. Quindi mi ha dato la sua passata fatta in casa, mi ha detto li devi fare con questi, perché se no. E quindi questo suo orgoglio anche nel dimostrare che faceva bene un piatto, che voleva che io assaggiassi il vero piatto tipico come lo faceva, ha fatto sì che insomma mi è venuta l'idea poi di riproporre questo scambio, di chiedere questo scambio in ogni città d'Italia, in ogni regione. Quindi in questo libro c'è un giro d'Italia, è rappresentata ogni regione, e ogni regione è rappresentata da uno o più città, ci sono più città disegnate. E in effetti io poi, visto che è stato fatto tutto in autoproduzione, un po' mi appoggiavo ai festival quando andavo a dipingere, un po' su Facebook, sui social mettevo vorrei andare in Calabria, non conosco nessuno, c'è qualcuno che mi ospita, quindi questo scambio poi si tramutava in una collaborazione fra me che offrivo un murales e le persone che mi ospitavano, trovavano un muro e che poi mi facevano la ricetta. Quindi spesso erano associazioni culturali, centri sociali, Pro Loco e privati cittadini, perché poi anche alcuni mi hanno detto sì, a me piacerebbe, io a casa vorrei un muro, la ricetta è la cosa più semplice da fare, perché ognuno c'aveva la sua ricetta, conosceva qualche nonna, qualche nonno che faceva la cucina, quindi sono entrato nelle cucine delle famiglie, quindi qua si tratta di cucina familiare, non sono andato nei ristoranti, nei bar, nelle trattorie, tranne che in alcuni casi in cui c'era un bed and breakfast, ma che faceva anche cucina locale con la nonna che stava lì a impastare col pane, quindi sono andato a fare delle ricette e degli scambi e quindi a dipingere anche in posti, in due o tre case, anche in posti che prima avevo bannato, perché volevo che fosse veramente una cucina familiare, volevo andare a conoscere la nonna che faceva quel piatto, volevo andare a capire quale ingrediente si metteva in quel piatto. E quindi questo scambio poi l'ho fatto per 3 anni, dal 2017 al 2019, due anni e mezzo, E tutto ha funzionato col baratto, fondamentalmente un baratto in cui io non chiedevo niente in cambio, se non assistere alla preparazione. Quindi, mentre la persona ai fornelli cucinava e mi spiegava la ricetta, io prendevo appunti disegnando, quindi avevo dei taccuini di viaggio. Che riempivo di questi disegni schizzati, e quindi i disegni schizzati poi sono semplicemente stati scansionati e messi nel libro così come erano stati fatti dal vivo. Quindi le ricette sono disegnate, e ecco perché non è un vero e proprio libro di cucina, perché le ricette si possono seguire, si possono fare tutte le ricette fatte nel libro, però non è un libro di ricette in cui c'è scritto 120 grammi di farina 00, perché spesso le signore che facevano queste ricette non lo sapevano quanta farina ci va, perché lo facevano tutti i giorni da sempre così. Quindi quando io dicevo quanta farina ci va per questa pasta, e lei mi diceva quanta ce ne vuole, oppure a occhio, a sentimento, e quindi questa cosa fa sì che diventa un libro di sentimento e non di ricette pure, come un libro di cucina. Dall'altro lato nel libro c'è la foto del murale fatto in cambio. E c'è un piccolo testo che racconta un po' di aneddoti di come si sono svolte le cose, dei fatti divertenti. Per esempio, c'era sta signora di Tufara che aveva iniziato il progetto, aveva fatto un'operazione al cuore e non poteva fare degli sforzi fisici. Quindi, per me, aveva fatto uno strappo alla regola e aveva messo a fare sta pasta fresca. Però mi ha detto: mi raccomando, se vede mio figlio, non gli dica che ho fatto la pasta fresca, perché se no mi sgrida e si arrabbia che io non dovevo fare sforzi. Quindi ci sono delle gag del genere su tutto il libro, che poi è diventato un percorso totale della nostra bella penisola, dove ci sono tante tante variabili di piatti che si possono trovare solo in alcuni luoghi. Diciamo che le regioni sono rappresentate appunto simbolicamente, perché si potrebbero fare un libro per la Toscana, un libro per le Marche, un libro per il Piemonte, perché ci sono talmente tante cose differenti. Basta andare da un paese all'altro, qua se vai a 20 km ci sono i Pici, ci sono altre cose che non si fanno magari qua. La Toscana è rappresentata da Mondeggi, e a Firenze in realtà non feci uno scambio, sono andato più a Mondeggi, sono andato verso Siena, però non scegliendole fondamentalmente nelle città, ma scegliendo anche casualmente cosa succedeva. Se uno mi rispondeva: ah sì, c'ho sta amico che sta là, vai là, e quindi succedeva tutto così in maniera molto spontanea, e ecco perché sono andato in posti assurdi, in provincia di Crotone, sotto il Molise, in alcuni posti, in Valle d'Aosta, dove conoscevo nessuno, però ci sono arrivato. Proprio è stata la più difficile, la Valle d'Aosta è stata l'ultima regione della Valle d'Aosta, perché io non so voi, ma non conoscevo nessuno della Valle d'Aosta, e quindi una certa su avevo fatto tutte le regioni, mi mancava sta Valle d'Aosta, e ho detto vabbè, avevo messo una cartina dell'Italia, avevo fatto tutte le stelline su tutti i posti in cui ero stato. Poi la Valle d'Aosta avevo messo un punto di domanda dicendo: ma conoscete qualcuno della Valle d'Aosta voi? E qualcuno ha risposto: sì, conosco un amico che conosce un amico che conosce qualcuno che sta a Entrod, un paesino vicino a Aosta. E quindi mi ha parlato. Insomma, poi c'era stato il sindaco che aveva capito il progetto, mi ha invitato al paesello, ha fatto tutta una festa bellissima del paese, perché spesso capitava nei Valsa la pena paeselli. aspettare Esatto. la Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta, cioè, fanno la festa del panir, hanno inventato questa cosa, che è il pane nero, un pane di segale che si fa una volta l'anno, e tutti gli abitanti del paesello vanno lì al forno collettivo, cucinano sto pane che storicamente si faceva una volta l'anno, poi si lasciava seccare e si usava nelle minestre o nelle zuppe per dare un po' corpo ai piatti. E quindi facevano una volta l'anno chilate e chilate di pane, che poi veniva seccato. Durante la cottura di questo pane si trovavano quindi tutti gli abitanti, e facevano a gara: quello portava il vino nuovo, quello portava la grappa, quello portava il moscato, quello portava il genepi, e quindi alle 9 di mattina già erano tutti belli carburati e si sfidavano a chi aveva il vino migliore. E questo pure è disegnato, cioè c'è disegnato sulle ricette, c'è cioè uno che beve, uno che prova il moscato, poi una certa disegno è andato un po' a puttane Hai perché partecipato. ho partecipato pure io, dovevo assaggiare, che quello si offende se non assaggio il Certo. moscato. E quindi ci sono un sacco di aneddoti e racconti di tutti i tipi, in tutte le salse. poi appunto ci sono anche alcune ricette che ha inserito a margine che non sono legate a un ambito regionale, ma a un tuo aspetto più intimo, più Diciamo, personale. alla fine del libro c'è un capitolo che si chiama Le mie ricette. E ci sono delle cose, delle ricette che a volte faccio, no, a volte le mie ricette del cuore che faccio io, però che non sono legate a un territorio, cioè che ne so, la Linsensuppe, che è una zuppa di lenticchie rosse che avevo assaggiato a Berlino, ed è una cosa che faccio spesso perché mi piace, perché è buona, e quindi c'è quello. In quel caso lo associo per esempio a una musica, quindi nel fumetto disegnato c'è io che ascolto i Rammstein mentre taglio il prezzemolo, il coriandolo, o strizzo il limone, che ne so. Poi c'è la ricetta del grog, che è una bevanda che a me piace molto quando appena c'ho un raffreddore bevo un bel litro di grog, che è un tè nero con lo zenzero, il limone, il miele e del rum. Quindi un bel tisanone carico, e lì gioco sul fatto che mi immagino un pirata che fa sta cosa, quindi che va a fregare il rum, che c'ha la sua razione del rum, che usa per fare il grog, che ci mette dentro lo zenzero e il limone, e si fa sta pozione magica che secondo me cura, diciamo, una bella percentuale dei mali, dei malanni. 80%. Bello tanto. Poi, che ne so, c'è il caffè Baldassarre. Quando Baldassarre è un signore che ha un caffè a Palermo, e io lo adoro perché ogni volta che vado a Palermo vado prima da Baldassarre a assaggiare il caffè, intanto perché fa un caffè buonissimo, e poi perché lui è burbero, non dice una parola, è sempre elegantissimo, fa solo caffè nel suo bar. Il bar c'è niente alle pareti, cioè ci sono miliardi di tazzine sporche che lava piano piano, e però lui fa il caffè nello stesso modo da sempre. Parla sì e no, ti dice buongiorno e buonasera, però a me sta cosa che lui è burbero ed è così orso e che non ti parla, a me piace un sacco. Quindi sono andato lì da lui e timidamente gli ho detto: guarda, vorrei fare questo libro, mi piacerebbe inserirti perché mi piace il tuo caffè. E lui mi ha risposto: ma ha detto niente, ma ha borbocchiato qualcosa. E quindi mi sono messo in un angolino timidissimo mentre lui faceva il caffè, perché lo fa allo stesso modo, cioè tipo sbatte le tazzine, fa tin tin due volte, fa tira giù l'acqua, fa sempre allo stesso modo, è matematico. E quindi io stavo lì mentre arrivavano i clienti in un angolo, timido proprio come uno stronzo, e disegnavo questo processo per preparare il caffè. E ancora non gliel'ho fatto vedere, ad aprile andrò a Palermo a presentare il libro e gli porterò il libro, però chissà se fra Forse avrà tre parole le dice, se mi oppure dice beh, però mi hai fatto brutto, no? sarebbe già un passo avanti, magari. Quindi ci sono delle gag così un po' più strane, che ne so, c'è pasta e ceci, a me piace un sacco fare pasta e ceci, e quindi lo associo a io ho vissuto a Roma per un po' di anni. E quindi è piatto super romano, proprio dalla cultura e dalla tradizione, lo associo a Franco Califano, quindi quando faccio pasta e ceci ascolto Franco Califano, piango, quindi bevo un sacco di vino per brindare al re Califano, tutte cazzate così, insomma. E poi non vi dico tutto perché sennò sto libro... No, io un aneddoto però te lo vorrei chiedere, che tutte le volte che si fa presentazione alla fine mi piace, quella del colore rosso fondamentalmente, della descrizione del colore di quello Addio. che facevi. A Cioè, proprio. Salemi. Allora ero arrivato in Sicilia. In Sicilia è intanto la regione più rappresentata in questo libro, anzi ho dovuto tagliare qualche ricetta perché sennò veniva tutta la Sicilia. Quando dicevo sui social, a parte che io insomma conosco un sacco di gente in Sicilia, ci vado molto volentieri, quando ho detto allora vorrei fare questa cosa in Sicilia, sono spuntate fuori associazioni, privati, nonne, tutti volevano fare questa cosa. Quindi quando avevo fatto il tour, perché mi organizzavo dei piccoli giri, era stato un lavorone andare dappertutto e cercare mangiare dappertutto. A Salemi, appunto, ero andato all'associazione Peppino in passato, e c'hanno una sede bellina e avevo fatto il mio murale e c'era un ragazzo non vedente, lo conosci, Ignazio, che canta benissimo. Poi ci siamo messi a cantare, non Califano, ma proprio abbiamo cantato la sera. E a una certa, quello Ignazio mi dice: ah, allora mi racconti un po' il tuo murales? Mi dici, io raccontavo: allora qui c'è una macchina scassata, qua c'è un albero che sale, e poi sai, la mia particolarità è che uso solo il bianco, rosso e nero come colori. E lui mi fa: che cos'è il rosso? spiegaglielo. E dicevo, che cazzo è? Mi spieghi il rosso? Dicevo, l'amore, il calore, non so. E quindi insomma ci sono messi a chiacchierare, poi non so se non ci sono riuscito a spiegare cosa è il rosso, non so se si è fatto un'idea, forse sì, però insomma se poi siamo messi a chiacchierare, lui, gli ho detto, lì c'è un ragazzo che c'ha un libro in mano, poi ci siamo messi a parlare, allora lui legge in braille, mi sono fatto di come si dice qualcosa in braille, e quindi mi ha detto, ah, cosa vuoi dire? E io ho detto, cosa ci scriviamo? Suca. Quindi ci abbiamo messo Suca in braille, disegnato, a lui sta cosa gli ha fatto ridere, ci avevo fatto lui col libro in mano che dice Suca. Però il rosso è rimasto così. Forse il rosso è un disastro. Spiegalo, come lo spieghi il rosso? Io non so, io se Simone è imbarazzato a parlare, io sono ancora più imbarazzato di Simone, quindi no, posso raccontare un altro aneddoto. Infatti volevo anche ringraziare l'ospitalità, il Festival di Letteratura, l'Emerson e tutto, perché è bello. Sì, e secondo me, cioè, siamo al banchino, saremo qui per 3 giorni, quindi ci fa molto piacere essere qui. Comunque la prima presentazione l'abbiamo fatta da noi e questa è la seconda presentazione che facciamo a Firenze, quindi siamo emozionati, ma fa molto piacere essere qui. E sì, gradirei ancora aneddoti su sto libro, che è stato veramente un libro sentito per tutti noi, almeno che ci abbiamo partecipato, chi più chi meno. È stato un bel viaggio anche per noi accompagnati. Sì. No. Andai in Calabria e scoprì che in Calabria non esiste una cottura altra che non sia, che non è la frittura, quindi era tutto fritto. Quindi ci sono varie ricette, le crespelle, le patate, i bucunotti, insomma un sacco di cose buonissime, tutto fritto. E quindi a un certo punto io stavo a fare sto murales grosso in cima a una scala, era agosto, era un caldo della Madonna. E questi mi facevano frigge. E quindi a una certa io ho detto, signora, a me forse gli faccio un dispiacere, però vorrei mangiare qualcosa, un po' di verdura, un po' di insalata, una verdurina. Allora, ma come no? C'è patate e pipe, un piatto di peperoni e patate. E ho detto, vabbè, dai, peperone. Solo che non lo sapevo, il peperone è fritto e la patata è fritta. E poi si mette tutto insieme e si rifrigge. Quindi sta cosa della... E quindi mi ricordo che stavo su sta scala e stavo lì, avevo sto fritto sul collo che non la facevo assalire. C'è un video in cui mi giravo e dicevo, no, basta, non ce la faccio più. Perché poi c'ho anche la foga di assaggia questo, assaggia quello, è buono, continuo a assaggiare, continuo a mangiare, e quindi non mi regolo, non mi fermo. Avrei dovuto, però è così, è andata così. E quindi è tutto fritto. Sempre in Calabria, poi a Umbriatico, che è un paesello, anche lì io scrissi, vorrei andare in Calabria, un po' di amici mi hanno dato dei consigli, mi hanno dato dove andare, e poi uno su Facebook mi scrisse, io vivo a Umbriatico, un paesello, e faccio dipingere le porte delle case, le porte di metallo che prima erano le cantine, e faccio dipingere questo dagli artisti, se vuoi venire vieni, punto. Sei ospite. E io dicevo, sì, vabbè, però allora mi servirebbe la ricetta, vi voglio spiegare tutto il coso. E lui diceva, no, ma te vieni, tranquillo, vai, sei ospite, quando vuoi, tu e la tua famiglia, venite. Io non lo conoscevo, che dici? Cercavo di carpire un po' di informazioni, insomma, di spiegare, guarda, che io verrei dal 27 al 3. E quello fa, no, vieni, punto. Non mi rispondeva altro che, vieni, sei ospite, vieni. Quindi sono arrivato lì, gli ho detto, guarda che vengo, e sono venuto. E quindi sono andato lì con la mia ragazza e mia figlia, e sto paesello è veramente 300 anni, ci sono più vacche che abitanti, c'è la transumanza, e siamo arrivati con la macchina e c'era tutto il paesello a aspettarci, c'era tutte le famigliole che stavano lì, e siamo arrivati in piazza e tutti stavano lì, è arrivata la macchina e siamo scesi noi. E questi poi, mancava la banda del paese, però più o meno era così, e ci hanno accolto super, super bene. Ho conosciuto questo signore che su Facebook mi diceva vieni, punto, l'ho conosciuto, mi ha detto vieni, punto, quella è la casa, queste sono le chiavi, sei ospite, mi ha trattato come un signore per 3-4 giorni in cui siamo stati lì, si è deciso in piazza, tutti insieme, che si fa come ricetta, hanno fatto tipo un'assemblea popolare, tutti insieme, che si fa, che non si fa, hanno fatto il piatto tipico, hanno trovato chi lo faceva, e poi ho fatto sto dipinto in una di queste porte di metallo, e ci avevo messo una capra, allora feci sta capra, poi mi giro e c'era un signore che mi guardava e faceva, no, no, e dico, che non va bene, ho fatto una capretta. Ho fatto, no, la capra non c'ha tutte quelle mammelle. Io avevo fatto tutta la serie delle mammelle, non avevo studiato proprio bene come era fatta una capra. Io avevo fatto le corna, le orecchie, la barbetta. E quindi non era incazzato, però era un po'... Non gli andava tanto bene. E quindi ho detto, ah no, allora ce n'ha due. Ah, sì, ce n'ha due. Allora io ho cancellato le mammelle, io ne ho fatte due, più grosse quelle. Poi era contento, insomma, poi ho detto, vabbè, mo va bene, adesso così va bene. Se no, non si poteva fare. Ma hai fatto aspettare la signora, hai fatto passare... Madonna, quella è una tragedia. Sempre in Sicilia, proprio perché c'avevo mille paesi da visitare, mi avevano invitato a Gibellina e io stavo a Palermo. E io non so perché pensavo di arrivarci abbastanza in fretta a sta Gibellina. E invece no, il cazzo, mi sono perso, c'avevo la macchina, però mi sono perso, poi c'erano le colline, guardavo i paesaggi, così fricchettonissimo, e quindi dovevo arrivare alla mattina, invece io ero ancora a Palermo, quindi la chiamavo sta signora che era il mio contatto, e dice, guarda, io ci provo, però insomma, secondo me arrivo un po' tardi per le 11, quelle mi diceva, no, non è possibile. Insomma, questi a Gibellina avevano affittato il forno locale, avevano iniziato a impastare, e quindi mi chiamavano, mi dicevano no, devi arrivare perché la pasta sta lievitando troppo, te devi sbrigare perché se non lievita non si può fare più niente. E quindi questi, poi non avevo proprio capito, ero proprio completamente sballato, non avevo capito tutto sto sbattimento che stavano fa. C'era il museo, quindi quelli del museo che dove avrei dovuto dipingere avevano invitato la troupe televisiva, quindi proprio io come un coglione sono arrivato tardi, il giorno in cui tutti mi aspettavano, e quindi sono arrivato lì. La signora, dopo mille altre telefonate, come diceva, la pasta lievita, il forno chiude, dobbiamo infornare. Sono arrivato lì in ritardo, quindi sono arrivato così strisciando come un verme e ho detto guardate, mi sono perso, ho sbagliato, scusate. Loro avevano iniziato a fare la pasta perché sennò lievitava troppo, quindi avevano già infornato tutto quello che dovevano infornare. La troupe televisiva aveva fatto tutte le riprese di tutti i passaggi per me, e quindi sono arrivato, era tutto fatto, abbiamo mangiato, però mi ha fatto, la signora era all'inizio un po' tesa, diciamo, quella bella signorona che era un po' tesa perché io sono arrivato tardi, poi mi ha visto che ero mortificato, mi ha detto guarda, va bene, ti perdono e ti spiego come si fa la ricetta. Quindi ci siamo messi seduti uno vicino all'altro, lei mi ha un po' accarezzato, mi ha consolato e mi ha perdonato, esatto. Però mi ha fatto molto piacere, e lì mi sono sentito veramente uno stronzo perché sono arrivato tardi quando non dovevo. E voilà. Un altro aneddoto da fare. Le froce di Finocchietto. Basilicata c'è. C'è una potenza. E a Andretti. Aspetta, devo fare un recap. A Pesco Pagano, ecco, Pesco Pagano pure è divertente. A Pesco Pagano hanno inventato la sagra per me, la festa dei paesi, per fare la migliazza, un piatto che si fa cuocendo, sembra una polenta, ma non è una polenta, una farina di mais con dentro i ciccioli, vari tipi di grassi animali, e che si cuoce in questo pentolone di calderone di rame alla brace. Quindi per fare sta cosa, l'amica mia che mi ha ospitato e che ha organizzato sta cosa, si è inventata sta sagra, ha detto vabbè, facciamo il fuoco in piazza, facciamo il falò e cuociamo sta migliazza. E quindi si è fatto per bene, e quindi in realtà poi c'erano tutte le persone che stavano intorno a sto fuoco e stavano così a aspettare che cuoceva, e lo sport nazionale era stabilire quanto mancava, quanto doveva ancora cuocere. Quindi c'erano le vecchiarelle che facevano no, ancora mezz'ora, quindi si mette la brace sotto, sto pentolone di rame, coperchio, la brace sopra, e poi ognuno dice la sua, fondamentalmente, quanto ci vuole, quanto non ci vuole. 2 ore e mezzo ci vuole. alla fine della giostra era 2 ore e mezzo. Però è stato bellissimo perché io mi sono sentito onorato, abbiamo fatto il karaoke, c'era proprio una festa. C'è la domanda, Asia? Vai. Come l'hai vissuta all'inizio, quando poi hai detto che diciamo, a Molise era così un'idea, vorrei farlo ovunque. Poi è successa un po' la stessa cosa a Bologna, ero un altro lì, ancora lì per un festival, stavo facendo un muro, una ragazza che faceva dei aveva un laboratorio di cucina che mi ha chiesto anche lei che gli facessi un muro perché era un po' nascosto la sua associazione, e io ho chiesto, vabbè, allora c'ho forse quest'idea in cui a me piacerebbe imparare qualcosa della cucina. Lei mi ha detto, guarda, adesso oggi pomeriggio viene la Sfoglina, che è la signora che fa la pasta fresca, viene la Sfoglina, se vuoi impari a fare i tortelli. Quindi ho detto, a voglia, certo, facciamo i tortelli. E quindi è stata lì, mi ha insegnato a fare i tortelli, e quindi il secondo scambio, che era così bam bam, naturale, spontaneo, ho detto, vabbè, no, qua c'è qualcosa che dobbiamo portare avanti, e lì, diciamo, è nato l'idea di farlo ovunque. Poi un po' sfruttavo i festival, un po' Facebook, poi piano piano ha preso corpo, ho detto, vabbè, allora c'è la possibilità di farlo diventare qualcosa di più grosso, e lì già ho pensato che poteva essere un libro. Poi come è nato così, poi si è sviluppato nel tempo da solo, però l'idea era questa. Poi in ogni regione avrei voluto toccare ogni regione, poi si è fatto da sé. C'è stato anche un bel lavoro, perché effettivamente il database che ha tirato fuori in 3 anni era una roba chilometrica, incasinatissima. è stato un bel lavoro di Lucia, che è la nostra impaginatrice, che si è occupata un pochino di quel lato di progetto, della parte grafica, che insomma è stato bello impegnativo. Anche perché io poi facevo le ricette, la scansione e la parte del disegno era la parte, diciamo, più facile, l'ho fatto io l'impaginazione, e poi l'ho data a Lucia. Lucia ha fatto un ottimo lavoro scegliendo le foto, perché io poi facevo foto, poi non è che stavo lì a aspettare la luce, io stavo magari un giorno, se non c'era la luce facevo una foto con quello che c'era, quindi è riuscita a prendere, che ne so, i particolari, alcuni dettagli, e ha scelto, perché poi io facevo 300 foto prima e dopo, e lei è riuscita a trovare almeno una foto giusta. Poi io sono un cane a fare le foto, quindi facevo le foto così. Ogni tanto c'era qualcuno con una macchina fotografica buona, allora gli davo la mia schedina e dicevo, me la fai te per favore, perché se no ci sono foto col cellulare, perché poi stavo anche in giro così col cellulare, non sempre c'avevo una macchina fotografica. Quindi per fortuna Lucia, chapeau, è riuscita a tirar fuori un bel librone con il materiale confusionario che gli ho dato, così. Una bella linea con il rosso, abbiamo deciso, appunto, su input di Lucia, di mantenere come unico colore dominante il rosso, perché poi è la cifra stilistica tua, fondamentalmente, è un po' un marchio di fabbrica. Esatto. Poi un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire inizialmente, noi comunque come scelta editoriale abbiamo quella di appoggiarci a piccole stamperie locali, cioè per evitare, spendendo molto di più rispetto a quanto si potrebbe, ma insomma ci fa piacere spingere, appunto, realtà piccole e locali, insomma, in una maniera. Ocrea Stamperia, che è tra l'altro quella che appunto ha prodotto questo e anche gli altri libri che abbiamo pubblicato. Questo. Ci sono altre domande poi, per toglierci un pochino da questo imbarazzo? Se no io continuo a raccontare aneddoti a Gugu. Scegliete una regione, facciamo così. Trentino? Sono stato in Trentino. ho fatto i Canederli. Buoni Canederli. Anche lì c'era una signora... Trento, mi hanno portato lì, insomma ci sono arrivato, mi hanno portato lì, c'è un'associazione culturale, hanno preso l'associazione culturale con degli amici che fanno un sacco di attività a Trento, e poi mi hanno portato, io ho fatto quindi un muro nella loro, la loro associazione, e poi mi hanno portato dalla nonna che faceva sti canederli. Allora anche lì c'è tutta un'alchimia per far canederlo e far sì che non si spacchi in acqua. Perché poi il canederlo è tipo, una polpetta con varie cose, che viene lessata in acqua bollente, solo che non si deve aprire, quindi deve essere compatta quanto basta per far sì che non si spacchi durante la cottura. questo pure non si sa come fa, che è compatto, quanto ce ne vuole, ci vuole un po' più di pan grattato, un po' meno di questo, un po' meno di quello, non si sa, si deve provare, quando non lo sapeva nemmeno lei lo faceva e gli veniva benissimo, è ovvio, non è che si spaccava, mi diceva così, si fa così, quindi ci sono varie cose, ma solo lei lo sa, bisogna provare, ma come tante cose in cucina, bisogna provare e si sbaglia. Dal vivo dici io rifaccio sempre le froce di finocchietto, no, di qualcuno di quelli che non hai rifatto ancora. Che non ho rifatto perché ci sono cose difficili, ne so, la pecora, la cottura in Abruzzo non è una cosa che si fa. Io sono stato al centro sociale Casematte, che è un centro sociale dell'Aquila, e lì pure avevano colto l'occasione per fare sta ricetta, per fare una cena collettiva, hanno fatto sta pecora alla cottura. Pecora alla cottura è, prendi una pecora vecchiarella che ha già vissuto la sua vita, ma la pecora intera, quindi quello si è presentato con 14 kg di pecora e l'abbiamo cotta, ma due calderoni erano grossi così, e quella non è che si può rifare. Poi ci mette igiene, promille odori, e poi è lunghissima, prima si lessa da sola, poi si rimette a ripassare con gli odori. Abbiamo iniziato a mezzogiorno, l'abbiamo mangiata alla sera alle 8 di sera, quindi era una cosa lunghissima, al di là di trovare gli ingredienti giusti, quindi la pecora io non saprei dove trovarla, la pecora vecchia, no? La pecora normale, cuocerla 8 ore, quando lo rifai in un calderone grosso così, ma quando si fa? Possibile, come la migliazza che vi ho raccontato prima, come si rifà? Organizza la sagra. Devo organizzare la sagra per tutto questo. Quindi, il Friuli è bellissimo, sì, ci sono stato. Sono stato a Trieste e a Ziracco. Trieste ci sono stato perché avevo vinto un bando di concorso che dovevo inserire la cucina del quartiere con un murales, quindi era proprio scritto per Graffiti per Pranzo, quindi allora io ho detto guarda io faccio sto libro e ho vinto, sono andato, il concorso era sì, era su mezzo per me, non è stato così facile, però era abbastanza in sintonia con quello che facevo, quindi sono andato lì a Trieste. E poi un'amica mi ha portato a Ziracco. Ziracco è un paesello piccolissimo, dove ci sono due case e una specie di bar, non è un bar, una mini trattoria, e lì mi ha fatto una ricetta buona pure quella, la morisca, ma merda. Il frico, che è una cosa di patate e formaggi, solo che lei, visto che andava a prendere i formaggi dalla signora a fianco che aveva 5 mucche, non sapeva che formaggio era, quindi mi ha detto questo è vecchio e stravecchio, quindi c'era 2 tipi di formaggi, uno più stagionato e un altro meno stagionato, e quello ci vuole. Io ci ho provato con altri formaggi, viene buono uguale, devi prendere cose. E praticamente il frico è patate tagliate sottilissime, mescolate con un botto di formaggio, e fa questo formaggio, si fonde, fa una crosticina sopra e sotto, poi devi fare il flip e rigirarla, e poi quando si taglia viene tutto formaggio fuso, una bontà, una madonna. Carica, e quello si beve, ci si beve a fianco. E quando lei mi faceva sta ricetta nella sua tavernetta, a fianco io dipingevo e guardavo sta ricetta, e a fianco c'era i vecchiarelli che giocavano a carte. Si scannavano dei bestemmi incomprensibili, ammazzavano dei vino che costava tipo 50 centesimi. Era bellissimo perché io non capivo un cazzo, sembrava che questi stavano per fanarisse, invece giocavano a carte in maniera un po' più animata del solito, però non si capiva una sega tanto quando parlavano, perché parlavano in dialetto strettissimo, però è stato bello anche lì, bella esperienza. Anche lì io sono delle Marche, provincia di Ancona, non ho scelto... Non è che le ricette nel libro le scelgo io, le sceglie chi le fa, cioè chi me le propone, io dico insegnami qualcosa e questi mi mostrano cosa fanno. Hanno fatto una cosa che non farò mai, il piccione ripieno, a Chiaravalle in provincia di Ancona dove sono nato, c'era la nonna di un amico mio che mi ha fatto sta ricetta, ovviamente lei... Stava in campagna, c'aveva i piccioni dell'amico suo contadino, non è che è andata in piazza a prendere i piccioni. Però pure quelli erano piccioni ripieni di maiale, ci hanno messo un maiale dentro, il grasso del piccione impallottolati dentro la pancetta, buoni, però è una cosa che non è, quando la rifai non si può rifare, quindi quello. Una cosa che non ho ancora rifatto, ma che rifarò, sono le olive all'ascolana, che sono buonissime, però è lunghissimo anche quello. Lì sono stato in una famigliola, erano in quattro, c'era la mamma che tagliava l'oliva alla spirale, perché non si taglia dritta, si taglia la spirale all'oliva, in modo che poi quando fai la palletta di carni macinate, che è maiale, mucca e tacchino, tutto tritato, si fa una palletta così col pan grattato e l'uovo, e intorno ci va quest'oliva che lo acchiappa tutto, poi viene bagnata nell'ovetto. C'ho fame. L'orario è quello. L'orario è quello, ma parlare di sto libro infatti fa sempre venire fame. E poi viene fritto, quindi in sto caso c'era la famigliola intera che faceva la catena di montaggio, c'era la signora che tagliava, la figlia che metteva la palletta, l'altro figlio che la panava, e poi il marito la friggeva e poi io la mangiavo. Questa è una cosa buona che vorrei rifare. Sì. Scusa, ma forse invece dovresti stare in difficoltà a mangiare. A mangiare? Questa non la mangio? No, non la mangio, no. Ah, io ho mangiato ovunque tutto. La ricetta che non ti è piaciuta? La ricetta che non mi è piaciuta? No, no, ci sono anche ricette. No, che non mi è piaciuta? No, mi è piaciuto tutto. Ci sono state delle signore che erano un po' più titubanti, quello sì, che mi hanno fatto delle ricette, però sembrava che mi facevano un favore, però sembrava che non ci avevano tanto voglia di fare. Poi magari erano solo il loro temperamento che era così. Ci sono state delle ricette un po' più semplici delle altre che forse... La carbonara, vabbè, è buona, però lì ho giocato, sono stato a Roma, nel Lazio, tra tutte le ricette che potevano fare, hanno fatto la carbonara, che buona, vabbè, buonissima, però si fa un po' da tutta Italia. E quindi io gioco sul fatto che a me fa ride un sacco i romani che si incazzano perché dicono che ci sono tre ingredienti, serve il guanciale, il pecorino e l'uovo fresco, e quindi quando su internet vedono che qualcuno ci mette la pancetta o il parmigiano, sclerano, ma proprio tipo figlio di puttana, si ammazzerebbero. E quindi io ho detto vabbè, dai, mi fai sta ricetta della carbonara, sì, però è un po' sopravvalutata, quindi quella si era un po' risentita di questa cosa. E quindi sulla ricetta ci sono io che gioco stuzzicandola un po', sta ragazza che mi ha fatto la ricetta, dicendo vabbè, io ci ho vissuto a Roma, la carbonara, dicevo sì, vabbè, la carbonara è buona, vabbè, fatta bene, va bene, però è un po' sopravvalutata. Secondo me la romanità, e questo lo penso davvero, viene rappresentata al meglio in cucina dai contorni, quello che si fa a Roma con i contorni, carciofi, la cicoria, le puntarelle, l'alice, il fiore di zucca fritto, tutte queste robe qua, secondo me si fanno solo a Roma, insomma, si fanno bene a Roma e rappresentano Roma meglio che la carbonara, che si fa un po' ormai un po' ovunque, non è che... pure in Francia si fa. Anche questo, siamo andati a fare delle presentazioni a Roma e poi finiscono con delle cene incredibili, vabbè, è una meraviglia anche per quello. I vinci sgrassi sono una specie di, ma non una serotola, una tomba, una specie di lasagna, però molto più carica di pasta, con meno ragù, molta più besciamella. Quella è una cosa buona. E poi la pasta nonna la faceva fresca, non prendeva la lasagna fatta. Marchigiane che faccio? Boh, in realtà io cucino, non cucino tanto marchigiano. Che abbiamo fatto le marche? Lo stocco alla fissa lanconetana, però quello non lo rifaccio. Che quello puzza, puzza. È buono, buono, però puzza un po'. Che devi, in realtà lo stoccafisso o lo prendi già bagnato, quindi vai dalla pescheria e te lo danno già a pezzettoni già bagnato, se no è un pesce secco, asseccato, che devi ribagnare, e quello puzza da morire. Cioè, bravo, non si fa più per fortuna, però me lo ricordo che alcune volte si faceva sto coso che bagnava, cambiavano l'acqua, che bagnava una puzza dei pesci dentro casa che non si fa. Però una volta fatto è micidiale. Ecco, si dice stoccafisso, in ancora si dice così, stoccafisso è l'unico pesce che nasce in tel mare e muore in tel olio. Vuol dire che ci devi mettere un botto d'olio per farlo venire buono. Che se magna stasera? Okay. No, direi che sì, esatto. Vista anche l'ora, se non ci sono altre domande. Grazie. Allora, ora al lato della scena. Al lato della scena abbiamo il banchino dove, se volete, vi... solo per il oggi ragazzo disegna bene, per cui fa anche una dedica. Solo per oggi, perché poi io vado via, quindi oggi disegno e poi torno in Francia dove vivo, però oggi posso fare le dediche, quindi venghino signori, venghino. Vi aspettiamo allo stand Three Faces laggiù in fondo. Grazie. Grazie a tutti, grazie mille all'Emerson e al Festival.